questa canzone io cambio stile. Sì, cambio stile. Divento il cosiddetto emo. Capelli alla botte, catene da metallaro. Sì, sono un emo da vedere, non son raro. Dico mi taglio le vene, ma quasi mai è vero. Lo dico per farmi figo, per sembrare più amaro. Maglietta da truzzo, cappellino new era. Sì, sono un emo, quello che non se la tira. Quello che per ogni cosa che va storta delira. Ma infine lo stile non vale neanche una lira. La cazzo di porto, entro in sta stupida casa. Tutto mi odia, la mia mente ormai è evasa. Ogni cosa che vedo sembra mi guardi male. Addirittura un quadro su una strada, un fanale. Salgo le scale, immerso nel buio. Mi rintano in camera come un cane e abbaio. Lo sguardo sul braccio, sull'ennesimo taglio. Pensavo di non farlo, in ogni cosa sbaglio. Cosa cazzo faccio, perché mi sto uccidendo? Forse la raga m'ha lasciato un bel film, sta finendo. Uomo, questo è l'emo, per me tutto questo è normale. Se non freno morirò molto presto. Non serve una psichiatra che mi pulisca l'anima. Magari è pure un virus che mi contamina, che mi passa per la testa, nemmeno io lo so. E se mi chiedi di spiegarlo, ti dirò sempre di no. Capelli alla botte, catene da metallaro. Sì, sono un emo da vedere, non son raro. Dico mi taglio le vene, ma quasi mai è vero. Lo dico per farmi figo, per sembrare più amaro. Maglietta da truzzo, cappellino new era. Sì, sono un emo, quello che non se la tira. Quello che per ogni cosa che va storta delira. Ma infine lo stile non vale neanche una lira. Il vero emo non è quello che piange tutto il giorno. Il vero emo, quello che non gira mai lo sguardo. Perché se sposto la testa mi si sposta un cappello. Faccio subito un dramma, mi credo fotomodello. Pantaloni così stretti che quando cammino faccio passi così corti che neanche un maggiolino potrei superare. Poi notato il colore blu, viola, verde, merda, non ti fanno orrore. Lo stile non è mio, lo stile è una fusione tra varie cazzate, qualche nostra decisione. Tipo guanti di pezza, pure in calda stagione. Puzzeran talmente tanto da sembrare un'esplosione. Poi con cappellini pop, coi capelli alla dark. Fa venire mal di pancia, ma mi sento come Clark. Con i superpoteri e la cintura da punk posso spaventare i bambini sulla giostra Luna Park. Capelli alla botte, catene da metallaro. Sì, sono un emo da vedere, non son raro. Dico mi taglio le vene, ma quasi mai è vero. Lo dico per farmi figo, per sembrare più amaro. Maglietta da truzzo, cappellino new era. Sì, sono un emo, quello che non se la tira. Quello che per ogni cosa che va storta delira. Ma infine lo stile non vale neanche una lira. Capelli alla botte, ma sai cosa intende? Cercalo su Google, vedi cosa ti attende. Fatti quattro risate, poi vieni a raccontarmi se assomiglio già abbastanza. Se dovrei pure ubriacarmi, poi ascolta quel che ascolto. Casino infernale, fa meno male ascoltare metal poco commerciale, lo trovo banale. Senti solo quello stile, c'è sta massimo tre note. Ernesto urla da canile, adesso tocca il peggio. L'orientamento sessuale, maschi tu gay e le ragazze quasi uguali, sono tutte bisessuali. Questo non è il problema. Il problema è che sembra sia una specie d'anatema. Scopare e divertirsi, chissà cos'è l'amore. Dovrei provare ad informarmi cos'è la depressione. Scoprire con dolore il vero significato. E che tutti gli emo mai se lo sono immaginato. Capelli alla botte, catene da metallaro. Sono solo un emo da vedere, non son raro. Dico mi taglio, ma quasi mai è vero. Lo dico per farmi figo, per sembrare più amaro. Maglietta da truzzo, cappellino new era. Sono solo un emo, quello che per ogni cosa che va storta delira. Ma infine lo stile non vale, non vale, non vale.